bellissimo. Mi sembra qualcosa di unico tra di noi, è un sogno, una magia che ora voglio fare solamente mia. È impossibile nascondere che siamo note che creano una melodia, e se cado mi rialzerò per scrivere la nostra sinfonia. Segui l'istinto e ascoltalo, oh, oh. Saltiamo insieme nel buio. Spicco in fondo liberamente, ti inviaggio verso la tua mente. Io verrò a dirti quello che sento ora dentro al cuore. Cambio vita, lascio che ci sia passione dentro me sempre più. Ti voglio dire che il mio vero amore sei solamente tu. Sto scegliendo te. Vedo qui, e so che invece tu cancellerà dal mio bisogno in lacrima. Ho capito ora che sei la più bella soluzione a tutti i dubbi miei. Se mi accompagni so che inizierà un viaggio in una nuova realtà. Segui l'istinto, ascoltalo, oh, oh. Saltiamo insieme nel buio. Spicco in volo liberamente, ti viaggio verso la tua mente. A dirti quello che sento ora dentro al cuore. Cambio vita, lascio che ci sia passione dentro me sempre più. Ti voglio dire che il mio vero amore sei solamente tu. Sto scegliendo te. Veramente, in viaggio verso la tua mente, io verrò. Cambio vita, lascio che